Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo cambiato anche fascia oraria, abbiamo cambiato anche fascia musicale, ovviamente, quindi adesso sono le 22.04 e siamo entrati nella fascia chiamata Rock Wave, ancora con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con questa band che ci raggiunge da dove, Maurizio? Da Vercelli, ha fatto un bel giro, un bel viaggio, però un viaggio positivo. Quando si viaggia per il rock è sempre positivo, secondo me. In Oveis, benvenuti a Blu Radio Veneto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Sono in tre, ristretti stasera. Versione ridotta. Ma l'importante è che ci sia l'anima del gruppo, della band. Allora, prima di cominciare la questa anima, perché chi è rimasto a casa poi si sente male, no? Sì. Allora, prima di cominciare questa carrellata con la musica, appunto, dei novenze che ci raggiungono da Vercelli, vi ricordo i nostri dati, quelli ormai consueti, che diciamo sempre, ma è giusto ricordarli. Allora, se ci volete mandare qualche sms, vi ricordo il 346 23 20 033. Se invece ci volete raggiungere qui in studio, lo 049 875 6423. Ci state ascoltando per radio, allora siete sintonizzati nelle frequenze di 88 e 700 oppure 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Per quanto riguarda invece lo streaming, quindi ascoltabile in tutto il mondo, basta semplicemente andare nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. lì in alto sulla home page, sulla sinistra, c'è scritto ascolta la radio, ascolterete sempre comunque la radio in diretta 24 ore su 24. Le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita appunto dal nostro direttore artistico, che salutiamo per l'ennesima volta. Sì, che ha voluto la band stasera. Che ha voluto tutta questa serata, e lui è molto esigente, vuole 3 ore per tutto. Mi pare giusto. Di musica. Sto scherzando, ovviamente. Alberto Prisco, che salutiamo caramente. Allora, di nuovo, quindi benvenuto a voi ragazzi di Vercelli, cioè i Noveis. E ricordiamo, sono Fabio Badano, detto Fecoz. Alla batteria, esatto. Che non c'è la batteria stasera. C'è il tamburello. Perché? Stasera. C'è un pezzettino, anch'io sono in formazione ridotta. Ah sì. Poi abbiamo la bassista, che però stasera non è la bassista, ma è la flautista. No. È la vocalist? No. È solamente flauto e basta stasera. Ciao Lorenza Ronza. Ciao. Benvenuta anche a te. Grazie mille. E poi abbiamo, Maurizio, abbiamo un capo supremo, un dittatore, un despota, un chitarrista, vocalist, chi più ne ha più ne metta, ma insomma si chiama Andrea De Regibus. Ciao. È vero che sei tutte queste cose, Andrea? No, gli altri dicono questo di me. E allora, perché hanno una trita simpatia. No, sì, comunque, vocalist no, No, a volte. Questa sera sì, però. Prestato stasera. C'è una trasformazione. Chiedo scusa al cantante, però bisognava sostituirlo, quindi spero di farlo degnamente. No, ho detto che gli altri dicono questo di me, allora ormai mi porto dietro questa nomea. Vabbè. Dittatore. Despota. Ma despota, cioè, perché crei le cose musicalmente, le inventi, forse quello? Sì, no, ma perché sono un attimino esigente in studio, un attimino esigente in sala di registrazione. Ma credo che sia la cosa basilare per una bella riuscita del prodotto, o no? Questo lo dicono quando mi vogliono bene. Ah, sì. Quindi raramente. All'inizio, quando le cose vanno, mi vogliono bene, dicono così. Quando poi mi lasciano, cioè, o ci lasciano, nel senso che se ne vanno via, certo. Loro, io non mando via nessuno, e allora dicono questo di me. Ah, ecco. Dunque, la band è nata parecchi anni fa, nel 2001, quindi circa 13 anni fa. Sì. E quindi ha una bella storia. Cosa dici, Andrea? È una storia anche prima, perché noi ci eravamo messi in testa di fare delle cover. Cover Beatles, Rolling Stones, Oasis, anche U, quello è interessante. Sì, anche U fate. Sì, facevamo. Facevamo una sola canzone degli di U. Quale? My Generation. Perfetto. Con risultati abbastanza scarsi, tra l'altro. Che la gente non riusciva a capire quello che stavamo facendo, no? Ah, ho capito. E anche noi forse non riuscivamo a capire quello che stavamo facendo. Allora, alterne fortune. Nell'estate 2001 abbiamo deciso di provare a fare cose nostre. Giusto. Ho portato 3 o 4 pezzi, non mi hanno mandato via e siamo ancora qua. Non ti hanno mandato via? Perché dovevano mandarti via? Io sono molto critico nei miei confronti. Ma cioè, può anche essere. Però vero. Erano 4 capolavori, quindi. Ma adesso. Però una cosa importante che tu hai detto è questa: ci siamo stufati, o meno mi sono stufato di fare cover, ho deciso di fare cose mie. È una cosa importante questo. Nel 2000 era più facile, adesso è ancora più difficile perché adesso c'è l'esplosione delle tribute. Nel 2000 siamo andati controcorrente. Vedi, siamo andati controcorrente. Mettiti vicino, leggermente vicino. Nel 2000, quando noi inizialmente volevamo fare una tribute band degli Oasis, sì. Perché foneticamente Novais, che è un posto di mezza montagna, si sposava. Però a quel tempo non c'erano tanto tribute band, c'erano più band che facevano rock 360 gradi. E venivano mal viste le cose perché dicevano: ma si stufa uno a sentire soltanto la musica di grazie. Prego. Grazie. Non posso inginocchiarmi perché c'ho Jack e la chitarra. il problema, posso dire una che figata parlare con gli Oasis sotto in radio. È vero, tu che sei tutto è vero che si riuniscono un'altra volta, le voci fatte dei nezioni dicono si riuniscono un'altra volta, sì, ma perché bisogna far girare un po' di voci, prima si sciolgono, poi si riuniscono prima di far passare, no, prima dico una cosa, finisco di parlare delle tribute che non erano tante ben viste, no, e noi volevamo farlo, poi allora l'abbiamo lasciato stare, poi quando abbiamo smesso noi hanno iniziato gli altri. Poi io non avevo mai pensato di scrivere canzoni. Poi sono successe un po' di cose personali che mi hanno un po' portato. Certo. Allora, consecutio tempo. Cioè, dimmi. In quel momento sono successe delle cose e io le riconduco a quelle. Non so se è quello veramente. Ma da lì abbiamo visto che le cose sono migliorate personalmente per me, perché è stata una buona medicina, e sono migliorate anche per il gruppo. Perché la cosa ha cominciato a prendere piede, abbiamo avuto più fiducia nei nostri mezzi, tutti si sentono partecipi dei pezzi, perché nonostante adesso le battute un po' stupide che faccio all'inizio del Despota, ma io scrivo le canzoni, ma tutti poi apportano del loro. Certo, questa è una vera band. E quindi tutti si sentono parte del processo creativo, anche se in corso d'opera. Io dico sempre che io sono il minatore che vado a prendere il pezzo grezzo e gli altri lo lavorano per far diventare un gioiello. Certo. Questo è l'assieme, l'idea, il progetto. Sì, ma poi veniamo da esperienze musicali molto diverse una dall'altro, e quindi ognuno porta del suo, certo, in quello che ascolta. Questa è la cosa più bella. Comunque si riuniscono nel 2015 per What's the Story Morning Glory. Ecco, vedi. Hanno appena fatto l'album in BDI, devono un attimino promuovere. Posso mettere anche dei soldi freschi sul tavolo. Sì, esattamente. Sì, perché sei proprio sicurissimo. Ma secondo me ha ragione lui, per un motivo molto semplice: gli inglesi non li hanno mai dimenticati, non solo gli inglesi, tutti non li hanno mai dimenticati, anche se le produzioni solistiche dei due fratelli non sono tanto male, anzi sono positive, però gli US sono un'altra cosa. Lo dico qua, dimmi. Ma da fonti molto vicine, molto vicine. La loro lo sa, molto vicino a loro. Ci sono dei problemi che vanno al di là del fatto delle beghe che sentiamo, ci sono delle altre problematiche. Ho capito. Immagino. Che non sono quelle che leggiamo sui giornali, tipo uno gli ha lanciato della frutta, l'altro gli ha spaccato la chitarra. Cioè, c'è quello, ma a monte di quelle due cose ci sono altre cose. Certamente. Come sempre. Come tutte. Tra altre cose, sono due fratelli, sappiamo che tutte le famiglie. Chiaramente. Per delle eredità la gente si uccide, figurati. Parenti serpenti, no? Dicono, no? Giusto? Assolutamente sì. Poi non è sempre vero, comunque non si può fare di un erba un fascio, però insomma capita spessissimo, diciamo, via. 2005, primo disco. C'è stato già una compilation Radio Mondo 106 che c'è stato un brano, Scaduta di stile, singolo, che siete riusciti ad entrare in questa compilation, ma il disco ufficiale, il vostro prodotto ufficiale... È il primo EP del 2005, Tutto bene casualmente. Il titolo nasce dall'ex tastierista che mentre stavamo in studio di registrazione registrando l'EP, in maniera, tra le cose, prima di quello c'era è finito nel bidone della spazzatura un altro EP, perché prima da cui abbiamo estratto Caduta di stile, che poi ha trasmesso la radio, quindi l'unico singolo che si era salvato. Era già di quello nuovo. Era di quello vecchio, sì. Praticamente, sì, sono passati un po' di anni. Io sono la memoria storica del gruppo. Ne faccio 40 il prossimo anno, i segni dell'età avanzano. Sei giovane, sei molto giovane. E praticamente l'unica canzone che si era salvata di quel lavoro lì era finita in radio. Tutto il resto del progetto però non ci era piaciuto e l'avevamo... L'avete dimenticato. L'avevamo dimenticato con sudore e denaro. certo. Abbiamo deciso di ritornare in studio e rifare una cosa, però da EP, no? Mm-hmm. Però qualcosa che ci fotografasse in maniera più nitida quello che eravamo, perché i suoni erano un po' distanti. Ho capito. E allora abbiamo fatto questo EP e durante una registrazione, una session lui ha fatto un giro di accordi, ha fatto facendo degli svisamenti. Cos'è questa parola? Svisare. Svisare la chitarra. No, sulla tastiera, però non era proprio con la tastiera. Con la tastiera e vabbè. E lui ha detto: "Beh, tutto bene, casualmente". Tutto bene casualmente, mi hai fatto il bingo. Chiaramente. Abbiamo il titolo. Esattamente. Che però è sempre un problema. Tira fuori i titoli. Sì. A proposito di titoli, cosa dice Agostino? Apriamo la finestra. Io sono pronto. Il primo pezzo avete scelto, che traccia avete scelto? La numero 10. La numero 10. Che è Ferito ed Illuso. Che praticamente noi la consideriamo il secondo singolo da questo CD. È quello che sta avendo tra cose più fortuna. E il primo è stato Ci sei tu, che sentiremo dopo. No, sentiremo dopo. Sì. E questo è Ferito ed Illuso, che è quella che siamo più legati. Beh, lo sentiamo e poi ne parliamo un momento, ok? Sicuramente. Era Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. A proposito dell'ultimo, fino all'ultimo secondo, è così si fanno le cose. Bisogna sentire il pezzo fino all'ultimo secondo, perché anche nell'ultimo secondo l'autore del pezzo ha deciso di impostarlo così. Questa armonica che dall'inizio un po' britannico, per modo di dire, e poi al finale molto americano, l'armonica. Però cosa vuol dire? È una bella cosa. Questa è una piccola jam session praticamente. È un po' costruito a diverse facciate, sì, a diversi momenti. Perché questa volta più di altri momenti, più degli altri dischi abbiamo chiesto una cosa a chi ci stava registrando, a costo che ci perdevamo un sacco di soldi e li abbiamo persi, ma li abbiamo investiti bene, non dovevamo avere vincoli dal punto di vista temporale e soprattutto non ci dovevano fermare, nel senso, se noi avevamo voglia in quel disco lì di andare a mettere una compilation di pentole che suonavano, nessuno mi doveva dire di no. Mi dovevano mettere in condizione di suonare nel miglior modo le condizioni di pentole. Ho capito, chiarissimo. Basta. Lasciarci libero la nostra interpretazione di creare. Se noi volevamo l'armonica lì, non mi dovevano dire ma andò a registrare l'armonica, no, avrei trovato qualcuno che mi suonava l'armonica. Avrei trovato la maniera migliore per registrarlo. E questa è un'idea che si faceva spesso e volentieri nelle famose incisioni degli anni 60. Io cito i Grateful Dead, che non avevano temporalità, andavano avanti fino a come... La tecnologia ci ha portato una roba come Sky, che io non avevo. E allora in questi 4 anni, da quando Sky, mi sono guardato un programma che era Classic Album, non so se l'avete visto. No. Praticamente è un programma dove hanno preso degli album tipo Dark Side of the Moon, sì, certo. Sgt. Pepper o altrimenti il primo album di John Lennon, o il Yellow Brick Road di Elton John, e qui fanno vedere praticamente Rumors dei Fleetwood Mac, sì. E praticamente tutti i passaggi delle varie registrazioni, cioè non è che fanno vedere tecnicamente quello che hanno fatto, un po' tecnicamente e un po' tutto quello che hanno passato i musicisti nella fase di cogitazione dell'album. E abbiamo studiato lì. Come si fa? Prendere spunto, insomma. Sì, da certe cose, certi... Come vivere lo studio di registrazione in maniera un po' più... Non devo fare il produttino. Poi noi chiediamo scusa a tutti quelli che ho citato prima se abbiamo fatto questa cosa qui. Però per fare un buon album abbiamo studiato sui buoni libri. Ah, ho capito. Diciamola così. Ah, certo. Chiaro. Quindi avete fatto un prodotto... Una bella cosa, si impara dalla banca. Avete studiato nel prodotto che dovevate fare. Sì, l'abbiamo studiato prima. Mi ho cercato anche di interiorizzare, nel senso, è un concept album e allora io vado a studiare... Non studiare, perché un concept, la musica non si studia, non si fa il tavolino, però farci permeare da quelle vibrazioni di quelle cose fenomenali. Certo, ho capito. Per me Rumors dei Fleetwood Mac è un album che io conoscevo a spezzone. Don't Stop, perché quella che poi è stata anche colonna sonora della campagna elettorale di Bill Clinton, sì. Beh, quelle 2 o 3 cose, ma ci sono Gold Dust Woman, c'è una caratteristica, forse quella l'hanno giudicato, e infatti anche qui nell'album poi abbiamo scelto di far cantare delle basta chiedere c'è una canzone. C'è una ragazza che suona, che canta, che ha una voce, secondo me, molto vicino a Stevie Nicks. Il problema di non è un problema, è il pregio di un album come Rumors di Fleetwood Mac è la piacevolezza nell'ascoltare gli arrangiamenti. Sono talmente belli, ma molto complicati nel senso positivo, studiate alla perfezione, perché chi li studiava alla perfezione, ma sono bellissimi ad ascoltarli, un disco che ha degli arrangiamenti favolosi, il suono è meraviglioso di quel disco. C'è poco da fare. È favoloso quel disco. Per me Rumors è un... Io, beh, ci sono forfiori di musicisti dentro, bisogna dirlo. Sì, però, sì, vero, però tutto bello. Poi mi sono letto anche la storia. È stata una cosa, perché poi c'erano 2 coppie dentro, sì. Stevie Nicks e chitarrista, non ricordo, Buckingham. Sì. Lisa Buckingham. C'era il bassista insieme all'altro tastierista. Sì, che dopo se n'è andata. Sono due coppie e hanno vissuto in questo. Sì, un po'. Hanno rivissuto gli anni 60 in quel disco là. Sì. Trepitoso. Non c'era la California, ma come se fosse stata la California. Assolutamente. Disco meraviglioso, migliore anche per i 30 milioni di copie che ha venduto, insomma, non è mica una cosa. Ma no, ma perché prima di che fosse andato via che anno dici? È 77, forse 70. Adesso non mi ricordo esattamente. Non mi ricordo più. L'anno dal 74. Via chi? Dunque c'erano le copie Lindsey Buckingham non mi ricordo più. Adesso vediamo su internet. Una volta non c'era, adesso c'è. Allora, dal 75 all'87 c'era Lindsey Buckingham e Steve Nicks. Insieme c'era Christine McVie. John McVie e Mike Fleetwood. Esattamente. Che Mike Fleetwood è sempre rimasto nella formazione. Si sono intervallati, hanno cambiato, però Mike Fleetwood è stato un perno. Beh, dobbiamo ricordare una cosa e dopo terminiamo, che all'inizio di carriera c'era un certo signore che si chiamava Peter Green. Dei Fleetwood Mac. Peter Green, Beyond the Game, un album favoloso, poco conosciuto. Black Magic Woman, l'ha scritto Peter Green, non l'ha scritto Santana, no, cari ragazzi. L'ha scritto lui. È quello il discorso. Però lì non avevano. Cioè, avevano. Come si chiama? Avevano sì successo, ma non erano. Non erano planetari. No. Erano un po' di elite, di culto, di nicchia. Poi ragazzi, sono andati negli Stati Uniti e le cose sono cambiate totalmente. The Change. Il cambiamento. Venite qua e faremo un grande speciale sui Fleetwood. Su tutta la musica, vi porto i saluti di Gianluca perché ovviamente è collegato. E mi salutiamo Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao Gian. Siamo pronti per suonare, ragazzi. Yes. Che cosa? Questo è un pezzo vecchio che è dentro. Il disco precedente? No, è di questo anno. Ma è vecchissimo come. Come scrittura. Come scrittura. Non è mai finito in nessuno dei CD e l'abbiamo rimesso dentro in questo. In questa versione qua, però, è la prima volta che la si fa nel mondo. Bene. Come si intitola il pezzo? Si chiama Insonnia ed era proprio lo stato che avevamo quella sera, che avevo quella sera quando l'ho scritto. Ok. Passo queste ore con in testa le parole dei momenti vicino a te. Piove nella testa, tutto quello che mi resta sono i dubbi e i miei perché. Notte fonda che fa male, cerco un Dio che non esiste dentro questa stanza triste e rabbia profonda che mi assale. Faccio un pugno di me stesso, scopro quel che voglio adesso. Cercami, cercami, cercami, oh no. Adesso cercami, cercami, cercami, oh no. Il letto mai disfatto, la tua ombra nello spazio mente camminerà e aspetterò il mattino ed i pensieri sul cuscino la tua luce cancellerà. Notte fonda che fa male, cerco un Dio che non esiste dentro questa stanza triste e rabbia. scopro quel che voglio, adesso cercami, cercami, cercami, oh no, adesso cercami, cercami, cercami, oh no, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami. Nell'album è un inizio da incubo, non è proprio così. Qua invece l'hai proprio fatto in modo molto diverso, chiaramente chitarra e voce. Ma nell'album il pezzo è molto claustrofobico, un po' decisamente, molto decisamente si chiama Insonnia. Insonnia non è una bella cosa. Esatto, non doveva essere assolutamente, però poi l'hai modificato giustamente, non potevi fare altrimenti. Chitarra e voce. No, poi è un pezzo, passatemi il termine, poco radiofonico per come l'abbiamo strutturato. Cioè, non so se avete sentito, c'è un pezzo di follia in mezzo. Che poi l'insonnia, che nell'immaginario nostro, Pierre si alza e va a accendere la televisione. È sempre il protagonista Pierre che gira. Si alza e accende la televisione. Senti lo zapping sulla televisione. Esattamente. E come mai? Pezzo numero 7, quasi alla metà. Assolutamente la metà. La scaletta è importante in questo caso, molto importante. Ti sto mettendo in difficoltà? No. Io sono piacevolmente impressionato che avete colto questa roba qui, perché da lì l'ottava, se non mi sbaglio, è L'attesa. L'attesa, esatto. E finisce il primo tempo. È vero. Allora, fermiamo il primo tempo adesso. Vi rubo 30 secondi, poi torniamo. Yes. Spot. Road to Rio, GMG e dintorni. Vivi con noi la GMG 2013. Dal lunedì a sabato alle 13.35. Testimonianze, interviste, collegamenti e aggiornamenti. Prima, durante e anche dopo Rio de Janeiro. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua. Quindi abbiamo detto che abbiamo quasi finito il primo tempo con questo pezzo. Sì. Mentre il microfono, mentre andava lo spot pubblicitario, ho parlato di aggrovigliato, perché mi piaceva questo correre tra insieme di suoni. Qui chiaramente Andrea l'ha fatto come poteva farlo, chitarra e voce, anche se però non è così calmo, rilassato, nonostante che sei cantante di supporto stasera, hai fai anche troppo, sei anche troppo bravo. Grazie. Avete sentito? Quindi dopo mettiamo. Avevamo lasciato correre la cosa nella speranza che invece, non... Ho attizzato il fuoco, Agostino, ho attizzato il fuoco. No, la canzone nella prima stesura o quando scritta a te in ogni caso. Sì, quasi tutto. L'hai scritta per te o per il cantante che c'era? No, questo è un grande problema, perché io scrivo per me e non mi rendo conto che devo scrivere per un altro. Questo è un mio limite. Ma anche proprio tecnicamente, a volte io gli chiedo di più, ma non mi rendo conto di chi ho davanti. Ma anche sui testi, tante volte io mi chiedo, ma se io scrivo questo testo qua, ma può essere interpretato dall'altra persona? Adesso non lui, ma poteva essere una terza persona. Sì, certo. Bisogna scrivere, tante volte bisognerebbe scrivere per chi, per il cantante, non per me. Cioè, se le cantassi io. Ma tu hai detto che poi i testi e le musiche, c'è un gruppo, si riunite e fate. Forse i testi scrive Andrea, d'accordo. Sì, ma e forse sono le musiche che subiscono i più forti arrangiamenti, i più forti influenzamenti da parte degli altri degli altri, degli altri sui testi. Sei un po' no, ma perché poi la melodia rimane quella, io posso togliere qualche parola che c'entra meno, qualcosa che non ci piace più di tanto, si fanno dei leggeri accorgimenti, però quelli sono. E poi il contenuto, poi, il contenuto e poi la tematica non si può cambiare. Ma tenendo conto che questo Pierre, che è il metro comune denominatore di tutto quanto, era già difficile per te, non era semplice. No, se dovessi guardare dietro quando l'abbiamo, è stato semplice, forse perché c'erano le vibrazioni giuste. Forse non ci siamo messi più di tanto a tavolino. Sì, ci siamo messi su certe cose, però è venuto tutto molto con calma, immediato. Forse perché aspettavo, forse quella cosa, ecco, che forse per quello. Mi piace pensare che era, se ci fossimo messi lì a cercarla una cosa così, forse non l'avremmo mai trovata. Forse come le canzoni, tante diceva volte... Lorenza, che a questo discorso è attaccato anche uno spettacolo praticamente. Sì, abbiamo fatto una rappresentazione teatrale il 4 di maggio, Vercelli. E Pierre quindi è al centro di questa rappresentazione teatrale. Pierre è al centro perché appunto è stato interpretato da un attore vercellese che si chiama Daniele Licata, e i testi sono stati scritti dagli scrittori sempre vercellesi che appunto hanno messo in teatro, quindi con una prosa dedicata, tutte le canzoni, e quindi è una bella cosa. Abbiamo fatto uno spettacolo in cui appunto intervallavamo le canzoni dell'album nell'ordine, ovviamente dell'album, perché poi è una consecutio temporum, quindi nell'ordine giusto, e con appunto le parti teatrali che andavano a intervallare le canzoni. Che spiegavano lo stato. Sì, lo stato era... Approfondivano la tematica. Sì, ecco. Sì, ho capito. E la cosa. È proprio la cosa più piena che potevamo fare, perché lì c'era tutta l'idea dell'album nella rappresentazione teatrale. C'era il parlato, c'era la rappresentazione. Cioè, abbiamo sentito anche The Wall. Sì. Con tutta la presentazione teatrale, le canzoni poi hanno sì c'è il racconto delle, noi lo metteremo poi anche sul CD, sul sito, quando c'è il racconto di Pierre, ma è una metafora poi quella canzone, quello stato d'animo di Pierre che lui vive, l'amore non ricambiato, mettiamo, non è l'amore non ricambiato, è uno stato d'animo che riflette una metafora che riflette qualcosa di più attuale. Ho capito. Lady, che parla di una bellissima ragazza che è nociva, perché sentiremo cosa, ma Lady per noi l'abbiamo inteso come le droghe, come thank you è quello di dedicato a questo, cioè, quindi è una metafora. È una metafora, sì, se ho capito. Ogni passaggio della vita di Pierre è una metafora di quello. Ci sei tu, che è l'ultima canzone. Non c'è, se voi sentite i testi, non c'è un riferimento né all'amore di una donna, di un uomo, per qualcosa. Ci sei tu, e la ricerca, e l'aver trovato quello per cui si era messo in viaggio Pierre all'inizio dell'ora. Ho capito. Che poteva essere il lavoro, la fede. Sì, certo. Anche perché Pierre comunque rappresenta un po', cioè, l'uomo comune, quindi insomma rappresenta un po' tutti noi. Un viaggio della ricerca, comune, alla fine io sto qui. Ognuno ha il suo viaggio e è alla ricerca di qualcosa. Ecco, questo viaggio mentale, queste 13 canzoni sono 13 sensazioni, 13 riflessioni. Ognuno poi in queste ci deve sentire, ovviamente, da una sua interpretazione. Le sue interpretazioni, certo. Beh, la musica è soggettiva, quindi va interpretata ognuno a proprio modo, insomma. Sì, ma abbiamo cercato di essere il più imparziali possibili. Senza dare troppi riferimenti. Beh, c'è anche chi nella musica invece prende posizioni molto molto nette. Molto nette. No, noi invece non siamo quel tipo di band. No, per me... Non ci piace dare lezioni a nessuno, non ci piace per forza... Non spetta noi a farlo. Ah, ho capito. Ognuno in quello che ascolta, no, poi il nostro deve ricercare una propria identità. Certo. Non aspettano, comunque, diciamo, non aspettano cose sbagliate, cose giuste, non aspetta i musicisti, ma di tutte le... Io non credo che ci sia, la protesta deve arrivare, la protesta, io l'ho detto anche in un'altra intervista, deve arrivare dalla società civile di tutti i giorni, non devono aspettare che lo dica un cantante. Noi fuori di qua... Possiamo protestare tutti i giorni, dobbiamo protestare tutti i giorni, dobbiamo aspettare che ce lo dica un cantante con una canzone. La società civile si deve ribellare tutti i giorni, quelle cose non vanno. Per un cantante, un musicista, un uomo di spettacolo, un uomo famoso, può dare una spinta alle cose. Cosa dici? Gli anni 60 c'era questo? ecco, il potere dei fiori, grazie ai musicisti abbastanza famosi, hanno spinto determinate cose. Ho chiesto a mia madre, che aveva 20 anni in quegli anni lì, perché ho detto, cavolo, avrei voluto vivere in quegli anni lì. E lei cosa ti ha risposto? Ho detto, c'erano anche tanti problemi in quegli anni lì. Certo. Non erano tutte rose e fiori, non erano tutte quelle cose che... C'erano problemi anche quelli, ma c'era molta più purezza però. Ah, questo è vero. Quello, c'era molta più purezza in tutte le cose che faceva. Non c'era malizia, non c'era cattiveria. E non c'era malizia. E quindi ci si poteva aspettare che anche dal cantante che diceva... Sì, dava un... Un messaggio. Like Love Not War, lo capivo di più. Adesso mi spiace, ma poi non dobbiamo. Mi sembra sempre che aspettiamo il vicino. Cioè, dobbiamo agire a noi. Dimmelo tu cosa devo fare. No, devo dirlo io cosa devo fare. Ma a me il cantante non frega niente, ma neanche il calciatore. Sì, sì, ok, d'accordo. Ma neanche l'attore. Un uomo di spettacolo in generale, insomma. Un uomo famoso, ecco. Ma sai, forse perché i personaggi lì sono un po' più in vista, quindi forse è più facile, sì, che hanno loro... un canale privilegiato però, certo. Se aspettiamo sempre solo i canali privilegiati, ma non ci muoveremo mai. Non, certo. Siamo noi da piccoli che dobbiamo, fare, certo. È lì. Siamo noi la potenza, praticamente. Fino a prova contraria. Esattamente. Sì. Ognuno di noi ha la propria potenza. E questa lady? Questa lady è una brutta signora. Sì. Ma è la Lorenza? No. Io non sono lady. No, è una brutta signora. Sono quelle signore che ti fanno assaporare qualcosa, ma non... poi si allontanano, purtroppo. Ascoltiamo, poi magari ne parliamo. No, dipende dalla serata. Ci sono delle serate che dici purtroppo, delle serate che dici per fortuna. Sentiamola. Ascoltiamola e poi sono da questo disco, che tra l'altro porta il vostro stesso nome. Quindi Novace con l'album si chiama Dall'1 alle 2, scusa, ho visto in primo piano, avevo visto il nome vostro, e Dall'1 alle 2, sì, esatto, avete ragione, e la canzone si chiama Lady. capisci la mia. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Qualcuno chiede: si sarà ispirato a The Acid Queen dell'opera Rock Tommy degli Who? Cosa dici? Pierre. Anche quel titolo ha un significato diverso. The Acid Queen nell'opera Rock Tommy è l'esperienza che prova Tommy spinto verso la droga. Abbiamo smesso di drogarci, quindi. No, scherzo, non ho sentito quel, cioè so qualcosa di quella di quell'opera lì, ma non ci siamo ispirati. Indovina chi te l'ha chiesto. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Parlando di questo pezzo, io ho scritto una piccola nota, è un blues elettrico, ma è un blues elettrico molto molto ampio che va avanti alla fine, poi giustamente mi hanno detto questo è un nastro. Praticamente l'ultimo pezzo si ascolta al contrario. Sì. No? È bello, è Beatlesiano convinto. Elter Set, l'album bianco, soprattutto a tutti questi giochi. Sì, grande valore. È una grande ispirazione. Però è una grande ispirazione, sì, però è una cosa positiva. Ma è la torta. Cioè, la torta come è fatta? La torta è finita. Mm. Non sapevamo cosa metterci in cima e abbiamo messo questa cosa qua. Questa cosa è sempre lo stesso discorso che facevamo prima. Mm. Gli ingredienti li sceglievamo, potevamo usare, dovevamo avere il più la dispensa doveva essere basta. Ma questo blues elettrico molto infuocato, perché? È nato per caso. È nato per caso. Dopo un giro in sala prove di quattro note ci è venuto l'ispirazione di farlo così. Veniva bene l'incastro di tutto. Veniva benissimo, secondo me. È proprio trascinante. Sì, ma tante cose. Adesso invece noi nella rappresentazione ultime che stiamo facendo l'abbiamo anche rifatto in una versione versione molto più lounge. Come mai? Stile Morciba. È un bello stile. È stile Morciba proprio del primo album. Il primo album in assoluto, uno dei primi. Quello di grande estensione, quello che ha avuto, ti ha fatto conoscere in tutto il mondo. Sì, quell'album lì. Perché dovevamo rifarlo il 4 maggio nella nostra versione teatrale, però il posto dove l'abbiamo fatto non era proprio una sala teatrale. E certi pezzi molto chitarrosi, molto cacciarosi, si sposavano male con l'acustica. Non venivano bene. Abbiamo rifatto in questa versione. No, in realtà grazie. La primissima versione era stata fatta per uno spettacolo unplugged. Sì, anche per... che abbiamo fatto qualche mese poi grazie prima. Ad altri due membri, tra cose ci dobbiamo citare anche gli altri membri. Dobbiamo citare sembra che suoniamo in tre, infatti, che Andrea Curella alla voce, Simone Forti alla chitarra e Matteo Sarasso alle tastiere, e grazie soprattutto alle ce l'ha pescato. Oggi è scatenato. Però non è in quell'album lì. È un album diverso. Beh, avevamo questo a disposizione. Questo è Blindfold. No, Otherwise. Otherwise. Ma avevamo Blindfold era nel Big Calm. Avevamo questo a disposizione, caro Andrea, cosa vuoi fare? Male. Male. E grazie soprattutto a Simone Forte, la chitarra, e a Matteo Sarasso, la tastiera, che abbiamo rivisitato queste sonorità sì, e le abbiamo... due elementi nuovi nella band, comunque, quindi hanno portato anche un po' il loro background musicale, quindi... abbiamo cominciato a giocare su nuovi arrangiamenti, anche se l'album oramai comunque era già pronto. Ecco, fatto. Una cosa che ho notato, abbiamo parlato, oltre a sentire in sottofondo i Morcipa, ho notato questo, che quando ci sono le presentazioni live che fate, tendete giustamente a cambiare, a sviluppare. Questo era un caso tecnico, dovevate fare così, però tendete a farlo, è una cosa positiva. Sì, prima lo facevamo con più difficoltà. Perché eravamo molto più giovani, molto più inesperti. Adesso diciamolo così, perché vorrei dire un'altra cosa, ma non la dico. Eravamo più inesperti. Bene. Adesso siamo diventati un po' più esperti, soprattutto grazie agli innesti che ci hanno fatto crescere. Che Simone Forti e Matteo Sarasso alle tastiere ci hanno sicuramente dato la possibilità, più sicurezza, e la possibilità di spaziare anche. Su altre nuove sonorità. E per noi questo è molto importante. Quindi riuscire a giocare con le proprie cose, riuscire a e quindi reinventarsi, essere sempre eclettici, cioè non soltanto fare, perché l'unplugging di radio l'abbiamo sempre fatto, chitarra e voce l'abbiamo sempre fatto dai primi anni che andavamo in giro con le nostre canzoni, ma la possibilità di fare delle canzoni in contesti molto più piccoli, non soltanto l'unplugged, quello proprio classico, ma in un'altra versione magari più completa, il set acustico con tutto, per noi quello è molto importante, perché ci mette nelle condizioni, ecco, di aumentare in ecletticità. Perché una cosa dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, bene lo sanno, fare l'acustico è molto più difficile, no? Assolutamente. No, c'è la possibilità di non sbagliare mai facendo la spiaggiata. Cioè, cosa vuol dire, Andrea? Questa quella che sto facendo io stasera. Stasera è un po' una spiaggiata. Stasera è una spiaggiata, sì. Nel senso che falò. Falò e chitarra. Qualcuno che. Ah, ho capito. Due birrette. Qualcuno in quel senso là. E qualcuno che si bacia in un angolo. È bello. O mare nero, o mare nero. Sì, ecco. La canzone del sole, esatto. Ma una volta si faceva comunque sempre così, eh. Sì, no, ma fare l'acustico giustamente. Però fare un acustico con una band è diverso. Con una band, ma soprattutto completo, magari dare anche la possibilità di dare nuova vita a certe canzoni. Abbiamo ripescato ma qualcosa. Che faccia scattare qualcosa in chi ascolta, cioè non che sia lì e dice "Ah, sì, ok, carina". Cioè andare a ribeccare, da far sentire anche la particolarità in quelle versioni lì. Quello è interessante, secondo me. Studiare qualcosa che... Poi in fondo il CD si presuppone che uno l'abbia o sentito o comprato, quindi non gliene fregherà niente di sentirlo uguale identica, no? Se mi viene a sentire dal vivo... Però c'è chi anche, qualcuno del pubblico, che ama particolarmente le versioni del disco. E fare una versione diversa, giusta, per una band ha tutto il diritto di farla, può mettere in difficoltà. Allora sfido chiunque a dirmi che David Gilmour ha suonato Comfort Within Numb nella stessa maniera almeno due volte. Lo so, questo è vero. Però capita, può capitare. Adesso la finale. Ci sono quelle su 10 cose, 8 le fa sempre, ma 2 le cambia. A proposito di... Vai vederlo, The Roger Waters, hai preso il biglietto? No, devo dire che devo fare ammenda che abbiamo fatto una delle cose più stupide della mia vita. Abbiamo i biglietti del concerto dell'anno di due anni fa. Giugno, e l'avevano rimandato per problemi tecnici, ora non so bene quali fossero. Peccato che non hanno dato comunicazione da nessuna parte, e quindi noi non l'abbiamo saputo, l'hanno anticipato di 2 giorni. Ah, perfetto. Quindi noi stavamo partendo per andare al concerto e poi, giusto per guardare un attimino su internet il percorso, ci siamo accorti che l'avevano già fatto. Ciao Roger. È stato bello, Roger. Cosa dice Agostino? Se no, io dico che comunque quantomeno potrebbero... Ma potevano scriverlo da qualche parte per... No, no, no, dobbiamo fare ammenda che la colpa è nostra. Sì, sicuramente. Non siete informati. Sì, no, devo... Ma io di solito... Vero comunque... è che sti biglietti si comprano sempre con 6 mesi di anticipo e quindi poi li lasci lì 2 giorni certo. prima del concerto, li tiri fuori e poi... Beh, se volete consolarvi in una piccola maniera, potete fare un giro in centro a Padova, c'è la mostra dedicata ai Pink Floyd, con tanto è aperta, cioè possono andare chiunque. Fin quando dura? Fino a fine mese. Il 31 luglio. È vero, no, su, perché chiedere un'altra cosa al mio capo domani è un... Cioè, proprio, probabilmente ci sarà ospite anche o, a Roger o scopro Waters. Stasera che ho patito anche lui dei Pink Floyd, ma dubito. Mi sa che non puoi usarla sta scusa. Comunque se ti può anticipare. Comunque perché è stata fatta Oppure, apposta. Oppure se ti fermi fino a sabato, qui in paese di provincia di Padova, c'è un concerto dei With Matrix che sono uguali, identici veramente ai Pink Floyd. Che fanno anche Comfort and Humbling. Gran album, difficile da ascoltare, ma grandissimo album. Sì. Ma loro sono grandi sempre. Esattamente. Sono sempre stati grandi. Benissimo, allora sono... Ma noi cosa c'entriamo in tutti questi che stiamo citando? Sto citando un sacco di persone e mi sto chiedendo, ma questi qua stanno citando tutta questa gente e loro cosa c'entrano? Niente. Beh, abbiamo citato anche Gigi D'Alessio. Abbiamo citato, l'abbiamo fatto fuori a nero, però l'abbiamo citato a nero. L'abbiamo citato a nero, quindi... Non diremo mai. Abbiamo citato a microfono spento, è meglio averlo citato a microfono spento. Bene. Adesso ci fate sentire qualcosa dal vivo vostro, visto che parlavamo di grandi artisti. Troppo buono. Questa è un'altra canzone che è dentro dal Lune alle 2 ed è un'altra canzone che noi abbiamo ripescato dalla valigia. La traccia che era nel disco, scusami. Questa qua è la traccia numero. Questa del disco, non mi ricordo più, dovrebbe essere la undicesima. Uscire da me. È la undicesima. Benissimo, vedi. Undicesima. Mi sono preparato. Undicesima. Questa è una delle primissime canzoni che abbiamo fatto. L'abbiamo, nell'album precedente la facevamo come canzone nell'acustico in radio. Mm. Ci è piaciuta in questa versione che facevamo nuova e abbiamo deciso di metterla dentro il CD. Canta quella ragazza che ha una voce similare a Stevie Nicks, quella che ci dicevamo prima di Rumors. Sì. Adele. Adele si chiama. Sì, si chiama Adele. Però stasera ve la canto io e non faccio però... Io mi astengo dalla... No, tu, faccio la voce. Tu non fai coretto. No, sì. Non vuole. Non vuole. Va bene. Allora, la canzone si chiama? Uscire da me. Volta ti vengo a cercare, anche se ormai non c'è più niente da fare. Sembravi contenta, sembravi felice, mi sono sbagliato, eri solo un'attrice. Ti sei divertita col mio cuore malato, ti sei divertita, ma è solo che mi resta di questo mio sogno, e che passano gli anni ma di te ho bisogno, di te ho bisogno. Freddo che il mattino ogni giorno almeno fai qualcosa per uscire da me. Se un motivo per ancora sperare, mi eri davanti, vedevo i tuoi occhi, m'ero perso di nuovo in quel mare di specchi, ma l'unica cosa che hai saputo dire sono le solite scuse con cui sai mentire. Per l'ultima volta tu hai fatto centro, spento il mio sogno, alzando il tuo vento, alzando il tuo vento. È fondamentalmente una ballad, fondamentalmente sempre tirata. Qui nel disco, nell'interpretazione di Andrea dal vivo, è una ballad, sì, stavolta, ma un po' strascicata, nel senso un po' malinconica. L'hai rallentata perché non poteva essere altrimenti, e le hai dato una versione bella, secondo me, con una certa predisposizione. Anche se tu non sei il cantante ufficiale della band, ti sei impegnato. Ripeto, cari ascoltatori, non è facile essere cantante quando di solito non si è prettamente cantante. Ti sei dato da fare e hai fatto bene. Siamo in una trasmissione dal vivo, assolutamente, quindi Andrea qui stasera ha suonato dal vivo, senza nessun giro, e ha suonato proprio così. Aspetta che ascoltiamo un po' di Adele. La ragazza. Metti alla fine. Riesci a... Dimmi. Puoi schippare verso la fine. Tanto continuate a parlare, che poi ecco. Sentite, diamo il giusto tributo ad Adele. Ad Adele, chiaramente, che ha impreziosito il pezzo. Sì, no, perché ti ripeto, sempre in quel mio periodo classic album, ma perché non mettiamo quella roba lì? Ecco, sì, fermati un secondo perché giravi. Hai capito? No, perché... no, era psichedelico anche questa. Ma perché non mettiamo qualcosa di... Una cosa che ho letto, sì, è stato un album importante questo, ma è un album pieno di tante cose fatte, poi rimesse un'altra volta, rifatte, ricombinate in una certa maniera. È stato un album difficile da farsi, questo è un album complesso. E sì, una cosa che ho letto anche in positiva, questo è uscito un po' di anni fa, avete citato la Sicilia prima mentre intervistiamo Joe, siete stati anche a Parigi nel 2007. L'episodio di Parigi, adesso finché Agostino tira fuori il momento di Adele, l'episodio di Parigi non è collegato a quest'album, perché l'episodio di Parigi è nel 2007. 2008. Ecco. Anche se già i presupposti di quest'album si stavano... Quando siamo ritornati indietro da Parigi dalla data, la settimana dopo siamo entrati a fare le batterie, di questo disco. Com'è stato Parigi? Perché Parigi, l'impatto con Parigi? Club dove bello. Siete stati. È bello perché abbiamo avuto la possibilità di avere la possibilità di suonare a Parigi, perché il fratello del nostro ex chitarrista aveva un locale là a Parigi. Ah. È un bar, come un clubettino piccolino. E facciamo questa scampagnata. Così, ha fatto un giretto. Qualche chilometro insieme sul furgone, sai, quel classico, il Volkswagen. Possiamo fare, hai detto Volkswagen, quindi possiamo fare un po' di su un bel Vivarone, Vivarone 2005. Il problema è che noi siamo partiti a novembre facendo il passo del Monte Bianco, si dice, a novembre senza catene. Sì, appunto. No, ma all'andata facciamo non c'era un filo di neve. Nel giro di tre giorni è sceso il mondo al ritorno. Il problema è che all'andata c'era un sole a palla che ti prendeva di là, invece al ritorno c'era una bella mezza metrata. Avete presente a mezzanotte abbiamo gli ultimi 20 km del traforo senza catene, in 6 col furgone pieno. Avete presente la scena iniziale di Misery, non deve morire, quando lui stessa cosa, eravamo soltanto noi con questi montagne da una parte all'altra, viadotti altissimi che la mia paura era quella di, perché non sono un gran guidatore. Guidavi te? No, perché odio guidare. La mia paura era quella che sbandassimo in curva, no? Perché c'erano questi viadotti dove passava l'aria, quindi tutto ghiacciato. No, però i guidatori, quelli più esperti, hanno detto: no, forse non è quello il problema, è che se noi ci fermiamo non ripartiamo più. Certo. Quando ho realizzato questo ulteriore, forse più gravoso problema, no? C'era Giuliano Palma, che era un suicidi, l'ho spento, ho detto: non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Ho detto, tutta questa gioia, cerchiamo di essere molto più mesti, più concentrati. Quando siamo arrivati su a pagare praticamente, all'inizio sono scesi, secondo me noi eravamo anche in multa, perché c'è l'obbligo di catena. Eravamo in multa. Quando ci hanno visti sono scesi, hanno sbarrato gli occhi per dire: ma come hanno fatto? Avete baciato la terra? Quasi. Più avanti. Mia madre alle 2 mi ha telefonato e mi ha detto: allora com'è? Ha detto: mamma, non mi sembra il caso. Ha detto: ci sentiamo tra qualche ora. Sei come Giuliano Palma, non mi sembra il caso. Ritornando al concerto di Parigi, com'è stato? È stato bello perché... ma è bello non tanto lì il suono, aver suonato, aver fatto gruppo, perché ci sono venuti a sentire anche della gente delle nostre parti, dei nostri amici, hanno preso il treno. È stata una maniera per qualcuno per farsi un fine settimana, per festeggiare anche un compleanno di una nostra amica, di fare gruppo tra di noi. Il viaggio è la cosa più bella, il ritorno, perché non è il suonare. Sì, però il viaggio e tutto quello che comporta, l'avvicinamento poi al... Sì, in modo per unire ancora di più. Sì, per unire ancora di più. È un momento personalmente della mia vita che sono momenti unici che non riesci più a ripetere, no, ne valgono più di con qualsiasi altra scampagnata. Ma perché nascono spontanei? Perché sai che parti, devi andare a fare una cosa e ritornare, ma nel mezzo non sai cosa può capitare. Programmato, però. E quindi buona la prima. Ogni cosa è buona la prima. Bene, a proposito di buona la prima, cosa di Agostino, sono le 23.09, sai cosa succede alle 23.09? Facciamo una domandina. Dai. Loro non lo sanno, stavolta non lo sanno. Non abbiamo studiato. Ma una domandina semplice. Se volete che facciamo sentire 2 minuti invece della canzone di Adele. Facciamo un momento. 2 minuti e poi facciamo quella domanda. Okay. Esattamente. Che sono nell'attesa di un segnale da te. Ogni giorno ti Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Anche spontaneo. Eccoci qua, 23:11. Piaciuta? Bello, bello, molto bella, molto bella. L'avete fatto per mettermi poi in suggestione la mia versione precedente. Dobbiamo fare no. Faceva schifo. Adesso la canzone faceva così. Ebbene sì, ci hai scoperti. Allora, Agostino, facciamo sta domanda. Cosa dici? Va bene, visto che amate tanto viaggiare, li hai istruiti? No, Andrea non ha voluto sapere la domanda. All'università avrei voluto sapere le domande, qua no. Vabbè. Allora, dicevo, visto che vi piace viaggiare, ipoteticamente se doveste andare in un'isola deserta, che dischi vi portate? Tre a testa. Non si può copiare. Non si può copiare. Da chi cominciamo? Dalla donna, via, che per cavallerie. No, perché poi sa che lo Lorenza. Copio. Lorenzo. Cominciamo da Lorenzo. Ognuno pensa. Lorenzo, dimmi. Dai. Io so già, però se... No, vai, precedenza alle donne. Vai. Vado io. Allora, io è mi proprio despota proprio. Sì. Io mi porto il White Album dei Beatles. Quello penso quello. Se noi facciamo quello me lo porto anch'io, scusate. Se non è la stessa isola. No, non vale. Non vale. Penso che se facciamo una classifica dei cantanti che passano, musicisti che passano per i quali, qual è il disco che si porterebbe? Il primo posto c'è il White Album dei Beatles. White Album dei Beatles, Rumors dei Fleetwood Mac e Definitely Maybe di Oasis. Quello me lo portavo anch'io, vedi? Io te l'avevo detto. Adesso devi cambiare per forza. Lorenza, te l'avevo detto, dillo te per favore. Di cominciare te, Lorenza. No, dai, vai Fabio. Fabio, intanto ci penso. Nostro batterista. Ah, ecco. Allora, The One dei Beatles, così racchiude un po'. Tutto. Ah, è furbo lui. E li fotto. Se no mi dicono gli altri. Tutto è stato più furbo degli altri. Esatto. La cosa dei singoli. Comunque, Bliss, anche tu i Beatles. Insomma. Sì. Bliss dei Muse. Ah, come mai hai scelto Bliss dei Muse? Perché è un gruppo che ascoltavo, diciamo, di sfuggita, di coda, tempo fa per radio, mi colpiva un po' di sound, ma non mi sono mai soffermato. Poi grazie alla mia morosa che è patita dei Muse. Quante volte l'hai visti? C'è una canzone che dal ti piace. Vivo, credo che dopo l'ultimo a Torino poche settimane fa, sono arrivato a 6-7 live. Però... E devo dire che sia a livello musicale ma a livello di spettacolo i soldi sono tutti spesi bene. Molto bravi a dire spettacolo. Sono pazzeschi. Sai cosa fondano? La musicalità anche potente e la melodicità. Sì, sono se vuoi anche un po' mistici. Sì, perché esattamente, hanno diverse sonorità. Neanche copiando, però prendendo da tante sonorità e mischiando. Sono riusciti a creare. Anche sull'ultimo una disco loro. Dicono, vediamo se sei d'accordo. Molta influenza, quindi. È molto, molto influenzata. Assolutamente. Sì. Ma anche loro, in tante recensioni, in tante interviste, l'hanno confermato. Perché loro hanno effettivamente preso, ma non solo da loro, dagli Uda, sì, certo. Rolling Stone, eccetera. Hanno cercato di creare. Uno che da vive quello. In un ambiente come quello inglese, non può paragonare agli U, avvicinarsi agli U, My Generation che voi avete fatto esatto. Molti anni fa, i Queen, cioè c'è poco da fare, è difficile, per musica è difficile. Infatti, però sono veramente sono bravi. E poi in Italia stanno facendo, in Italia, non soprattutto in Italia, ma in Italia sono molto amati, amatissimi in Italia. Molto, ma per fondo meno male. Sette volte. Esatto, almeno vengono di più e riescono a di vedere più, esattamente. E sì. Poi Innuendo di Queen. Ecco, Innuendo di Queen, l'ultimo disco dei Queen, dal Canto di Cigno di Freddie Mercury. Tocca a te, Andrea. L'ho già detto, tocca a Lorenza. Ah, si è già detto. Mi ha fregato il White Album, quindi mi porto Sgt. Pepper perché comunque è un concept. È diverso. È un concept, quindi alla fine... Ma anche White Album può essere definito un concept. Certo, però lì c'è anche il beer. Andrea non è d'accordo. No, non sei d'accordo. No, ma hai rubato il White Album. No, non sono d'accordo. Non sei d'accordo sulla definizione di White Album, di concept di White Album? No, è un po' più dispersivo. È un po' più dispersivo. Sì, essendo anche doppio, cioè insomma è un po'... Sì, questo è vero. E poi comunque ci sono canzoni veramente diverse. Sì, beh, certo. C'erano le quattro facciate, anche se Rigo ha fatto poco, ha fatto un pezzo solo. Beh, Rigo ha sempre fatto poco. Però... ha fatto quel pezzo, poi è abbastanza famoso. Dimmi. Allora, White Album poi? No, White Album, Sgt. Pepper. Dai, Sgt. Pepper. Stesso. Gli Oasis non possono non portarli, quindi mi porto What's the Story Morning Glory. Ecco, hai portato un disco diverso. Dai, e poi The Wall. Dei Pink. The Wall dei Pink Floyd o dei Roger Waters. Qua ci sono delle cose strane che ti no, è di Roger, no, è questo, quell'altro. E dei Pink Floyd, però come sappiamo sempre, volendo anche Dark Side on the Moon, purtroppo la gente compra Pink Floyd, non compra Roger Waters, anche se Roger Waters ha fatto tutto, però non è vero proprio al 100%. No, infatti se non mi sbaglio il batterista voleva già andarsene, sì, durante perché The Wall. Ci sono delle discussioni sotto non quello, lui deve essere lui era molto despota come qualcuno di nostra conoscenza, quindi si è fatto tutto da solo praticamente. Beh, l'ultimo l'ha fatto proprio totalmente da solo, Final Cut sì. completamente. Ma già lì, però lì sembrava che il batterista, ho un'immagine bellissima di loro che suonano a Live Aid l'ultima volta che sono l'ho visto anch'io recentemente, un'immagine bellissima con Richard Wright che è ancora vivo, sì, esatto, alle tastiere. È quello che l'hanno mandato via, è stato Richard Wright che l'hanno mandato via, sì. Proprio l'hanno richiamato. Però li ho visti suonare lì, ti dico la verità, quando vedo quelle immagini di loro che dopo tanti anni che suonano con i capelli bianchi, e c'era il batterista, c'era Richard Wright che diceva: è stato bello dopo tanti anni avere di nuovo Roger Waters vicino che mi suonava il basso, e mi sono commosso perché ho detto: beh, ci troveremo magari anche noi 5, noi 6, magari tra qualche anno nel nostro piccolo, senza avere palchi immensi come quello, con quella stessa roba, sì, continuare a ritrovarsi a con questa suonare. voglia qua lo so, quello mi, è sono, molto mi, bello. Mi sono proiettato nel tempo Perché al di là delle discussioni, al di là dei litigi, qualche volta la musica può anche unire un'altra volta. Ho detto con questa formazione, però. Esattamente con questa formazione. Assolutamente con questa formazione. Posso farvi una domanda? Perché non avete scelto nessuno di voi tre un cantante italiano? Non vi piace la musica? No, italiana? Non è vero, ci piace tantissimo. Ci piace. Però un album intero... Non ce n'è uno. Ci sono andato a vedere Nicolò Fabi 3-4 mesi fa. Cosa ne dici? Buono, per me... Molto bravo. Maestro. Sì, l'album nuovo, ecco, è bello. Molto interessante, sì. Ma vabbè, Nicolò Fabi piace tutto. Noi siamo amanti di Rino Gaetano. Sì. Anche noi. Soprattutto il cantante, che adesso non c'è. Ogni tanto alle prove ci diletta con... siamo amanti di quel genere lì, abbiamo citato i Negrita fuori... Fuori onda parlando di lei, a livello sonoro molto vicine. Abbiamo visto abbiamo visto i Velvet, di cui Pierre è stato scelto apposta. Quindi ci abbiamo un album intero, i Velvet, portarmi un album recenti. Ma i Velvet sono stati sempre considerati qualche volta troppo commerciali, qualche volta no. Invece musicalmente erano molto interessanti. Soprattutto gli ultimi lavori. Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscerli proprio dal vivo, perché sono scambiare quattro chiacchiere in amicizia. Sì, dopo i concerti sono molto... I Velvet hanno questa caratteristica. Gli ultimi album sono molto interessanti e il pubblico si è un po' allontanato. Loro hanno fatto dei dischi abbastanza diversi. Io tra le cose che leggo li ho visti... Li pesa un po' queste cose qua, perché si sono staccati, hanno intrapreso, se non mi sbaglio, una carriera diversa, se non mi sbaglio, lo sa sicuramente, si sono resi indipendenti dalla casa di discografia. Sì, hanno creato una loro etichetta, esatto, e producono anche altri gruppi. Però se da quel punto di vista lì, come dice Nicolò Fabi, indipendente è l'unica cosa importante, sì, è bella la cosa di essere indipendente. Però ti porta a uscire un po' dai giri grossi. Lo so. Non si può essere... È un po' difficile però scegliere. Se uno sceglie... Uno vorrebbe essere indipendente ed essere nel mainstream. L'etichetta del gruppo pop. Se invece va a sentire... È perché sentire... l'etichetta del gruppo pop gli è rimasta attaccata. Sì, appiccicata. Se si va a sentire Tokyo un loro live sono Tokyo marocchettari Eyes. Da... Sì. I loro live sono veramente... Però il grande pubblico li ricordano ancora come ricordano gruppo. Ancora con quello, con proprio. Quell'album che ma se me adesso lo da mangiare uscito. Con quella roba lì continuo a fargli lo so, però vedi ma che problema c'è? Nessuno ok, come si dice pecunia non olet questo non lo sapevo. Beh, questa è mia nuova. Facciamo un break musicale vostro, però insomma il singolo, sì. Quello che il primo singolo vostro, sì, primo che abbiamo fatto anche un video, Ci sei tu. Parliamo. Ne parliamo dopo, sentiamo ancora. Ok. Okay. io mi cambio, sono già in ritardo e la sera troppe cose in ballo. Le lancette del tempo quasi quasi le sento, puoi toccare il loro movimento. Ci sei tu accanto al mio dolore, ci sei tu in fondo a un temporale, ci sei tu quando manca colore, ci sei tu ragione tra il bene e il male, sei sempre al centro delle mie ossessioni, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Perché non l'abbiamo tagliato? Ma perché dobbiamo tagliarlo? Perché ci costa l'usignolo. Portarlo anche in tour ci fino costa. All'ultima nota l'abbiamo. Ci costa portarlo in tour l'usignolo. E ci costa anche pagargli i diritti. Adesso dobbiamo dire effettivamente dove provengono questi suoni, questi rumori. No, non sono rumori, sono suoni. L'usignolo è vero, assolutamente vero. Come l'avete registrato sto usignolo? Praticamente stavo registrando la chitarra acustica di questo pezzo qua, e con finestre aperte perché era d'estate, a seguito di un temporale estivo, è venuto fuori la calura dopo immediatamente, allora abbiamo dovuto aprire perché faceva veramente caldo. La chitarra era microfonata con 4-5 microfoni davanti e avevo il ritorno in cuffia di questo usignolo. Allora ho chiesto a chi ci stava registrando che o lo faceva tacere o lo portava in studio e gli davo il microfono a cantare. Ero un po' restio perché ha voluto fare un po' la rockstar, allora siamo dovuti uscire noi con un microfono, andare in giardino e andare a registrargli il suono. Il suono. E poi anche lui adesso è sotto contratto con noi. Il settimo novese è l'usignolo, per sempre portarlo in giro, fa un po' la rockstar. È un po' l'unico intonato del disco sono io, se quelle cose lì. A proposito di questo, non so se sai questo aneddoto che ti racconto. Tanti anni fa c'era un gruppo che si chiamava I Corvi. Sì. Ragazzo di strada, sì. E il corvo era vero, il corvo si metteva sempre sulla chitarra del leader e lui era ammaestrato e stava là per tutto il concerto. Purtroppo è morto perché loro si sono dimenticati del corvo dentro la roulotte e l'avevano schiacciato. Lui era talmente bravo che quando si fermavano per fare si fermavano sui tavoli a bere, lui si avvicinava al corvo e metteva il becco dentro il bicchiere di gin del leader. È vero, è una cosa mica, non è una leggenda metropolitana, è vero. I corvi, ragazzo di strada, come voi ricordate. Adesso se lui un gruppo del beat purtroppo non è stato valorizzato. Quelli erano molto bravi ragazzo di strada adesso è un pezzo strepitoso. Adesso se l'usignolo sta sentendo questa trasmissione vuole venire in tour anche noi e bere con noi ai tavoli. Potevi portarlo questa sera però stiamo creando un mostro. No, invece in maniera molto più poetica, visto che per me rimane la canzone più bella del CD, se non la più bella che ho scritto, e per le sonorità e per l'atmosfera che si è creato quando lo stavamo registrando. Quello ci ha dato veramente, è stata una delle prime che abbiamo fatto e ci ha dato veramente una grande spinta per tutte le altre canzoni, perché quello ci ha detto che quella era la strada e abbiamo un po' sperimentato perché era un po' fuori dai nostri canoni di scrittura e soprattutto di arrangiamento. E mi piace citare una frase che chiederò scusa, ha detto Bono per una sua canzone. Beh, penso che Dio si sia fatto due passi nello studio in quei giorni lì e la sua presenza è con l'usignolo. Bello, è una bella cosa questa, assolutamente. Ci ha dedicato 4-5 secondi della sua esistenza a noi, secondo me. La penso così. E io quando la sento è proprio... Per quello è diventata una rockstar dopo di sì, mi tocca citarlo. Infatti noi citeremo non l'usignolo, ma citeremo prendi i diritti Dio d'autore. Nella persona dell'usignolo. Ma ci hai dato un nome a questo usignolo? Non ci ho mai pensato. Potevi scriverlo nel disco, non con la partecipazione. L'abbiamo ancora stampato, ci possiamo pensare. Quando verrà stampato. I credits non li abbiamo ancora messi. Una cosa finale, cari ascoltatori, c'è un'altra cosa. L'acqua che scende è fatta in modo particolare. Com'è fatta l'acqua che scende? L'acqua che scende all'inizio è proprio acqua che scende, ce n'era veramente. Alla fine. E invece è quella alla fine, per simulare la fine della pioggia, abbiamo chi si stava registrando ha pensato di prendere una pentola, metterla nel lavandino, riempirla con metà d'acqua e poi aprire leggermente il rubinetto del lavandino e fare gocciolare. e poi registrare con un microfono. Questo è un karma musicale. Noi abbiamo parlato mentre il pezzo andava, c'è una piccola citazione di Baba O'Reilly, bellissima, piccola estemporanea citazione di Baba O'Reilly, anche quello è un karma che si ripete in modo bellissimo. Sì, sì, perché la canzone è proprio così, perché qualcuno quando ci aveva sentito la prima un volta mantra. Un mantra, infatti la prima volta che qualcuno aveva sentito la canzone diceva: beh, non sale mai, ma non deve salire, cioè, perché un mantra è circolare, non deve salire, non ha un pezzo che io l'ho sempre definita ipnotica, perché perché deve andare così. È bello, bella, cioè Baba O'Reilly era così. E questa cioè, non è un Baba O'Reilly chiaramente, però l'idea del mantra che si ripete continuamente fa parte del modo anche di musicare un pezzo simile. Per quello è molto interessante anche come costruzione. Beh, molto mantra anche nel testo, ci sei tu. Sì, esattamente. Assolutamente interessante, c'è poco da dire. Beatles, vanno e vengono. Living in the material world. Vanno e vengono sempre i Beatles. Da noi sempre. Esattamente. Ok, 23:33, abbiamo ancora circa mezz'oretta, circa. Ok. Adesso ci ascoltiamo qualcosa dal vivo. Eh sì, certamente. Oh, adesso ci ascoltiamo... Cosa ci sentiamo? Una canzone, anche questa vecchia, però questa non fa parte del CD. Mm. Questa è una delle due chicche che faremo alla fine del... Alla fine chiuderemo con una chicca che non abbiamo mai fatto, che almeno non ho mai fatto. Questa è una canzone che abbiamo ripreso nel nostro repertorio live, che fa parte del primo CD di Tutto Bene Casualmente, che si chiama Per Sempre Vivrò. Se non è la prima canzone che ho scritto, questa è la seconda. Bene. Quante occasioni perdute, tante che non le ho mai contate, storie di una vita mancata, che è passata e che non tornerà. Quando avrò scoperto i miei sbagli, il tempo avrà coperto i suoi tagli, giorni calmeranno i rimpianti, ma non so se ce la farò. E poi, certi sono i passi che faccio, fantasmi lungo il mio passaggio, mi dicono che non ci sarà mai più il brivido che gela la schiena, richiamo di un'essenza più vera, dice che per sempre vivrò. Quante strade ormai inseguito e quante volte sono caduto, piedi anche senza un aiuto, e se cado non mi fermerò, ma ormai io sono sempre più stanco, trascino i miei giorni cantando, la cura l'ho trovata sognando, e per ciò che è qui vicino a me. Certi sono i passi che faccio, così lungo il mio passaggio, mi dicono che non ci sarà mai più quel brivido che gela la schiena, richiamo di un'essenza più vera, dice che per sempre vivrò. E poi non soffi i fantasmi, ostacoli su tutti i miei passi, e faccio ancora un salto nel blu. Sei tu l'unica persona capace di farmi ritrovare la voce, dire che per sempre vivrò, per sempre vivrò, per sempre vivrò, per sempre vivrò, io per sempre vivrò. Io non, la versione dal, cioè la versione precedente non la conoscevo, ho conosciuto la versione stasera, chiaramente è una pop song, posso definirla, sì, così? Sì. Questa sì. Sì, questa è un, il più classico. Beh, il più classico ballatone. È come ogni volta che la si fa. Ciao Izio. Ciao Izio. Ciao Izio, giusto. Un ringraziamento solo per Izio. Solo per lui, sempre. Izio è un buon è un, chi ci sta curando la realizzazione del, che ha fatto la ripresa del DVD della serata del 4 maggio. Si sta realizzando il DVD che dovrà uscire prossimamente. È un amico prima di tutto. Esatto. È una persona che ha avuto dei problemi di salute abbastanza gravi. Ci ha omaggiato dicendo che questa canzone gli è servita a tirarsi su. Sì. Sì. E credo che potrebbe finire anche qua la storia di Novis. Ah, bene, bene, una cosa molto molto bella questa cosa, assolutamente. Di ogni volta lo salutiamo. È giusto, perfettamente. Ormai è la canzone di Izio. È la sua canzone, praticamente. Visto che abbiamo citato dei musicisti, se ti li ricordi, perché in questo disco ci sono tante entrate, tante uscite nel senso positivo del termine, tanta gente che vi ha dato una mano. Sì, dobbiamo ringraziare un po' di persone. Allora, prima di tutto ringraziamo Adele Carenzo, che ha cantato in... Un giorno strano, Luna Park, e ha fatto il pezzo ovviamente di Uscire da me, uscire da me che è il pezzo cioè principale. Che abbiamo sentito prima. Umberto Capaldi, che ha, ci ha accompagnato nel nostro percorso di arrangiamento del CD, e ha suonato diversi pezzi, ha sostituito il chitarrista precedente e collabora tuttora con noi, anche se ha una storia personale con delle proprie realtà musicali, certo. Però fa parte di quella che piace chiamare me la banda dei Novi allargata. Siamo, allargata. Sì, nostra, quindi i nostri parenti prima. La nostra crew. Salutiamo Checco degli OBG Slim, Checco Moroso, che ha cantato, ha fatto il pezzo di rap in Sole Silenzioso, dei Subsonica. Come mai avete scelto una cover di Subsonica in versione noi rap? Perché il cantante è un fan sfegatato di Subsonica. Sì, inizialmente la facevamo come... No, ci ha portato a vedere un concerto, sì. Non la conoscevo, conoscevo le classiche. Scatenato, e quando l'hanno fatta dal vivo l'hanno fatta chitarra e voce in una versione reggae. Ah. Io non la conoscevo. Bella. C'era Max Casacci e lui, versione... Ho detto, questa... Io non la versione definitiva non la conosco, ma è stupenda. Sono andato a casa, l'abbiamo rifatto, l'abbiamo cominciato a fare. Il pezzo rap, svelo una cosa, non vorrei dover dirla, ma la dico. Ma la dici? Ma sì, perché bravai. la stavamo registrando a click con la batteria. Ah. E io gli facevo le cose, soltanto che ci siamo sbagliati. Abbiamo fatto un giro di strofa in più. Ah, ho capito. Senza saperlo. E allora? Alla fine, l'abbiamo riascoltato e io ho fatto 3 ore buttate via. per trasmettere lì, fare diverse prove. No. Allora sono andato a casa, ho acceso la televisione e ho visto la versione dei Coldplay con Jay-Z, non so se avete presente, che avevano fatto per l'album precedente, avevano fatto una canzone che si chiamava, non mi ricordo più, quella da, sì, ho capito, dall'album precedente, che era Viva la Vita, Viva la Vita. Sì, c'era una canzone che fa con Jay-Z, no? Sì, mi pare sì. Conosciamo qualcuno da fargli fare un rap e fare quelle... Mi è venuto in mente, allora abbiamo riempito questa, ma è un errore questa cosa. Ah, è un errore, però è venuta bene, dai. Almeno abbiamo dato una nostra... interpretazione. Interpretazione. No, poi alla fine la toppa è migliore del... Beh, insomma, la toppa, non è la toppa. No, lo diciamo, possiamo dirlo, via. Dai. No, però è stata una gran toppa perché ha veramente impreziosito il CD. E dà la possibilità anche di vederci anche sull'altro aspetto. Praticamente facciamo del rap, quindi... Ma... Sì, non lo facciamo noi, però... È una contaminazione, questa crossover si chiama, no? Però questo album è nato appunto come un album di collaborazioni, quindi... Si sente in senso, senso positivo, sì, si sente. C'è gente che ha dato una mano, ma non solo una mano. Sì, questa qua. Eccola. Questa qua. Questa qua. Basta chiedere questa qui. Ma Agostino scatenato stasera, tira fuori tutto. Non succede più. Questa è la prima e l'ultima. Paganini volta. Non ripete, chiaramente. No, poi dobbiamo ringraziare soprattutto chi ci sta seguendo in questi ultimi mesi qua, che sono Nicola Balzaretti, Paolo Ignetti, che sono i nostri padrini in questo, in senso non sono buono. Collaborazioni nell'album, sono ci seguono, collaboriamo anche noi, c'è collabora con noi Elena Ferraris, Maurizio Roccato, Alberto Donna, che sono chi ha scritto i testi della presentazione teatrale del spettacolo del 4 maggio. E lo chiamano spettacolo del 4 maggio, ma sembra che è uno spettacolo che è nato ed è morto è una cosa che porteremo ancora avanti poi nel periodo invernale nei teatri, quindi noi lo chiamiamo spettacolo del 4 maggio. Sono tutti musicisti di Vercelli questi? No, sono auto, questi sono gli autori dello spettacolo teatrale. Quindi chi ha curato proprio la parte teatrale dello spettacolo, certo. Quindi ringraziamo loro perché ci stanno dando una mano, ci stanno supportando, fanno anche da... Vedete anche un po' d'ufficio stampa, la copertina di Maurizio Roccato, e quindi abbiamo trovato delle persone che ci stanno veramente dando una mano, tra virgolette, facendoci pensare, non sono produttore, ma facendoci pensare soltanto alla musica e curando anche qualche aspetto che magari più logistico che noi forse siamo anche un po' saturi. Ringraziamo anche Francesco Perugini che ha registrato l'album e ha anche collaborato con un cameo alla chitarra sull'attesa. E ringraziamo anche Charlie Chaplin per il pezzo dell'attesa. Ah, giusto, Charlie Chaplin. È il nostro caro amico uomo tuttofare Schulz che è praticamente il nostro rodio ufficiale, Schulz Davide Ruatti. È una cosa molto... È una grande famiglia. Come ho detto, poi ci sarebbe da ringraziare anche chi ha suonato la banda, perché alla fine di un po' della mia vita c'è una banda. Sì. Ringraziamo Mattia Opezzo al sax, Sid Anastasio alla tuba, Gian Matteo Massa che ha praticamente scritto il pezzo di riarrangiato di orchestra, che ha suonato anche il clarino. Roberto Foglia alla tromba. Quindi una serie di credits infinita. Ma no, perché ho detto io, almeno se andiamo a fondo andiamo in fondo in tanti. Ah, ecco. Esatto. Non dovete andare a fondo. No, porto dirlo tutti io. Possiamo andare la colpa che siamo pesanti. Sì, certo, come no. Adesso non siamo pesanti, ma manca circa un quarto d'ora. Cosa facciamo adesso? Quelli sono, è stato molto criticato questo disco, è stato prodotto da Brian Eno, un disco da 20 milioni di copie. Infatti l'EMI dicono gli operai, cioè i lavoratori dipendenti dell'EMI, aspettano sempre un nuovo disco dei Coldplay, perché così salvano il posto di lavoro. E non è una balla, è vero, le cose verissime. Infatti vedi sopra quello che hai detto. Esattamente. D'altronde questo è il genere loro e basta. Chiaramente non è... I puristi hanno detto vi siete commercializzati, eccetera, eccetera. Sono cose che lasciano il tempo. Ma A Rush of Blood to the Head, quando è uscito, mi è piaciuto moltissimo. In My Place, Sì, ci sono delle canzoni magari in più, sono i Coldplay, sono loro. Non sì, è sì, che sono loro. Sono loro. Cioè, non è che, sì, magari prima erano un filo un po' più chino, ricercate, ma erano anche i primi album, come degli Oasis, Roll With It, col primo, e nel secondo CD, se lo mettevano nel quindicesimo avrebbe stufato, come è stufato, nel senso che hanno fatto il terzo album, gli Oasis hanno fatto Be Here Now, il terzo album che era praticamente gli scarti degli altri due album, e non è più piaciuto perché i puristi hanno detto, loro hanno tirato... I puristi anche, devono dire qualcosa. Poi hanno fatto il quarto album, un po' più ricercato, si sono distaccati troppo. Ma è sempre il solito discorso. Ma ci sarà sempre qualcuno che è un po' scontento. Ma non puoi piacere a tutti, d'altro canto non tutti possono avere buon gusto. Bravo. Queste sono belle parole. Queste sono belle parole. Complimenti. E da chi le rubate? La Lusignola. Quello è bello. Allora, c'è un'alternativa. C'è sempre un'alternativa. Ci deve essere un'alternativa. Oppure sì. Un giorno strano. Se devo scegliere, scelgo un giorno strano. Se devo scegliere, c'è un'alternativa, è quella di scegliere un giorno strano. Ecco, perfetto. E allora facciamo ascoltare un giorno strano. We'll be right back. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Anche questo è un pezzo molto pieno di tante cose. Nonché i Beatles che vanno, vengono, vengono e vanno, però è una cosa positiva, dai. Beatles non è un punto di riferimento, è il punto là, basta. Dai Beatles dicono, dicevano i grandi critici, chi se ne intende. Prima ha cominciato Elvis e poi tutti gli altri. Prima Elvis e poi tutti gli altri. E tutti gli altri, appena un gradino, appena sotto ci sono i Beatles, secondo me. Eh sì. Dopo c'è anche i Beach Boys, altro gruppo straordinario con impasti vocali, forse i migliori, l'ha detto Paul McCartney. Hai sempre detto che Pet Sound album era... Sì. Tu non sei d'accordo su Pet Sound? No, io... non sei d'accordo su Beach Boys? Tutto Pet Sound, no. Non lo sopporti tutto? No, tutto no. God Only Knows? Quella è bella, è meravigliosa. Non ti piace? Brian Wilson. Beh, è un genio, quello è un genio. È un genio un po' tanto, pazzo. È tanto genio quanto è brutto, però... Lo so, è stato brutto, però, ma è un genio. Però, no, un genio, però è un genio. Quella canzone... È geniale. Geniale, geniale di come, come è studiata, geniale come... cioè, e che non l'abbiamo, non li... Tutto Pet Sound, no. Pet Sound, no, dici no. Tutto no. Sì, tutto no. Tutto no, ma buona parte sì, ed è giusto che se la giochi insieme a Sgt. Pepper, esatto, come, come, come due album, adesso uno, siamo lì però proprio... sì, secondo me quelli, per me i Beatles sono, sono quelli. Io sono andato a sentire Paul McCartney nel 2003 insieme a lei ai Fori Imperiali a Roma. Com'è stato? 500.000 persone. 500.000 persone. Quel giorno sì. Sì, Fori Imperiali è una cosa su... E ti dico, è uscito, sono uscito, ho sentito il soundcheck di Let It Be. Sì. Stavo correndo perché è uscito dalla metro, correvo mentre sentivamo Let It Be. Vabbè, va bene, bene. Tutto giusto, è uscito, le prime due canzoni sono, se non mi sbaglio, ero, Hello Goodbye, vabbè sì, la seconda, non mi è piaciuta più la seconda non mi ricordo più, quando hanno fatto All My Loving, proiettando dietro le immagini dei Beatles, è una delle poche volte che mi sono messa a piangere, perché avevo, i novesti erano da qualche anno e noi abbiamo sentito sempre Beatles, almeno io sentire una parte di Beatles reale davanti, davanti con noi... quelle immagini che sempre poi eravamo anche abbastanza davanti, diciamo, cioè, no, ho avuto, ho avuto il groppone ma anche tanti gli altri dei 500.000 hanno avuto il groppone, sì. E poi ragazzi, e poi a un certo punto ti giravi, vedevi e sulle DB e sulle DB fiumana di telefonini e accendini, cosa. Poi a un certo punto hanno puntato la telecamera. Dio, portami via adesso. Non ho più niente da vedere. Non ho più niente da vedere. È stato recentemente a Verona e ha fatto quasi 3 ore di concerto. Sì, sì. E ha 70 anni. Sì, no, quindi, ma... sì, lo so, era diverso. No, no, ma non è inspiegabile. È inspiegabile, è una band incredibile. È inspiegabile. Come fa a 70 anni avere quella vita? È una professionalità incredibile, perché lui è molto meticoloso, sì, scrupoloso, quasi maniacale, tutti i tour che fa sono suonati nella stessa maniera dalla prima, non è mai lasciato niente al caso, tutte le sue date, tutte le tappe del tour, di un tour, sono fatte tutte con gli stessi pezzi, con le stesse gag, sì, con le stesse modi, non è niente prima, fatto al caso. Le gag che fa con i musicisti sono già prestabilite. Il lavoro fatto maniacale, era lui che chiamava i Beatles di andare a registrare, non erano gli altri tre. Sì, era un po' più così. Un po' più così, ecco. Va bene, se dovevano aspettare Ringo potevano morire. Ringo è sempre stato, perché un batterista simile doveva essere nei Beatles, c'è poco da fare. Ringo si è sposato con una Bond girl e quindi con Barbara, con Barbara va, che è una Bond girl, così vuoi dire, brutto come la notte. Vabbè, ma è Ringo, però è Ringo. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, sono le 23:57 quasi, e quindi ci salutiamo con l'ultimo pezzo che si chiama, lo sentite, una piccola chicca, abbiamo parlato di Beatles fino adesso, è una dedica alla radio, a Blu Radio Veneto, grazie, e quindi una piccola chicca di questi signori di Liverpool, di un album sottovalutato dove c'era John Lennon che gridava aiuto perché si sentiva grasso, e c'era questa canzone qua. Bene, noi ringraziamo i Novace, nelle persone che sono venute a trovarci questa sera, come Fabio Badano. Ciao. Ciao Fabio, grazie. E Lorenza Ronza al flauto, che adesso suonerà il flauto, penso. Sì. Bene, grazie anche a te Lorenza. Grazie a voi. E poi questo dittatore imperterrito, Andrea De Regibus, chitarrista e vocalista questa sera, insomma. Dobbiamo ricordare, l'album si chiama Da Luna alle 2, uscirà è già uscito. Però fisicamente da settembre faremo la distribuzione anche del... In digitale è uscito il 21 marzo, quindi disponibile su iTunes, Spotify, su Amazon, quindi per chi lo vuole sul nostro sito è ascoltabile, quindi le canzoni sono ascoltabili per intero, quindi non c'è nessuna preview. Quindi prima lo sentite, se vi piace ve lo potete acquistare direttamente poi sugli stores. www.novace.it. Perfetto, okay. Prossimi concerti, vi li ricordate? Il 28 luglio, sogniamo a Frassineto, ad un po' che da nostra parte. Al Frassuono Festival. E poi il giorno prima dovremmo suonare a Vercelli, Piazza Cavour. Ah, benissimo. Okay, quindi pieno centro. Centro di Vercelli, praticamente. Ci diamo appuntamento, almeno per quanto ci riguarda, sia me che Maurizio, a domani sera con un altro grandissimo appuntamento. Ci viene a trovare uno dei più grandi chitarristi italiani, non lo dico perché, ma è perché è la verità, e cioè Tolo Marton sarà qui presente in questa sede per farci conoscere la sua musica. Insomma, è un chitarrista che ha suonato, tanto per intenderci, con Le Orme, ma... Un'altra cosa che ha ricevuto dal padre di Jimi Hendrix, il premio come miglior chitarrista di una contest in America, se non sbaglio, Maurizio. Sì, sì, proprio in America. Cioè, quindi siamo veramente ad altissimi livelli. Domani sera dalle 21 qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, appunto con Tolo Marton. Buonanotte ai Novace e ci lasciano con questa chicca dei Beatles. Bitossiana. In bocca al lupo per la vostra carriera musicale. Grazie, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao, a ciao, grazie, ciao. Here I stand, head in care, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go home, feeling too for small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them left me, and I say, hey, you got to hire all of the way. Hey, you got to hire all of the way. How can I even try? I can never win. Here I'm dancing them, and I don't know him. How can he say to me, love will find a way? Got a round of you cloud, let me say. Buonanotte. Ciao a tutti.